Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Bike Pride ormai è un momento riconosciuto in tutta Italia come effettivamente la ritrova la pedalata più grande in assoluto per la mobilità ciclabile, per la mobilità nuova, così la chiamiamo. Certo, gli automobilisti un pochino si incazzano perché quando occupano le città i ciclisti in quella fantasmagorica, colorita e silenziosa onda umana bloccano il traffico, ma lo fanno apposta perché una maniera per dimostrare che delle città ci si può impossessare anche in maniera silenziosa, anche in maniera pulita. La ciclabilità è in Italia un problema perché vendiamo tantissime biciclette, se ne fregano altrettante, le città non sempre sono attrezzate per il traffico in bicicletta, eppure sarebbe una cosa fantastica, meravigliosa. In Francia già lo fanno, in Italia c'era qualcuno che l'aveva proposta, ma di questa proposta poi non ho visto più traccia. Esiste la possibilità di dare un bonus mensile alle persone che vanno a lavorare in bicicletta. Siccome non inquini, siccome non occupi spazio pubblico, siccome fai vivere meglio gli altri e un po' fatichi ma stai meglio anche te, ti do un bonus sul tuo stipendio. Non mi sembra che sia andata avanti per ora questa proposta, ma è una proposta intelligente. Se tutti andassimo in bicicletta, cosa succederebbe? Subito immagino la levata di scudi, subito viene portato l'esempio, che è l'esempio più grottesco di ciclismo ostentato, che è il sindaco di Roma Marino, che arriva con il furgoncino, tirano fuori la bicicletta, i vigili si mettono a pedalare vicino, lui arriva pedalando, poi rimettono la bici nel furgoncino e lui riparte con la sua macchina. Ecco, questo non è esattamente, ma io, a me piace andare in bicicletta, amo andare in bicicletta e vivo nella città più scomoda del mondo per andare in bicicletta, che è Roma, tra San Pietrini, tra automobilisti che odiano i ciclisti, ti prendono di mira proprio. Ho rischiato l'osso del collo l'altro giorno dietro Castel Sant'Angelo, arriva una signora tutta sparata, una macchina velocissima, mentre telefonava, e ho sentito l'acciaio della macchina fendere il mio fianco indifeso. 800240024, la bicicletta è un'alternativa possibile al traffico cittadino? Io trovo che sia un'attività destressante, nel senso che quando uno va al lavoro a fare un'attività consente di scaricare quella tensione che comunque uno ha sempre prima di fare un'attività. Carico la bici in treno, scendo qui a San Pietro e vengo al lavoro in bici. La bici paga come una persona, diciamo. Ci sono dei vagoni apposta per metterli all'interno. Io sto qui in 25-30 minuti, cosa che in macchina ci metti almeno il doppio col traffico che c'è. Di solito fanno anche la doppia fila le macchine per entrare in centro, è capace che ti devi stringere molto, avvicinare molto e fare molta attenzione. È un'antica disputa fra automobilisti e ciclisti, come se fossero due categorie umane inconciliabili, non c'è spazio per tutti e due, non si sa perché non si riesce a trovare una forma di accordo. L'automobilista mediamente odia il ciclista perché gli rallenta la strada, perché ai semafori gli impedisce la sgommata, perché lo vede pedalare incerto, perché insomma è qualcuno che pesa fortemente sulla sua coscienza. Il ciclista, a forza di essere preso di mira da automobilisti, dice non ce la faccio più. Ogni tanto capita, molto spesso, che i ciclisti lasciano la pelle nelle città. È un dato di fatto, potrebbe essere ovviato con una politica urbanistica mirata a fare spazi percorribili in bicicletta. Eppure leggo oggi sulla Stampa che c'è un articolo dedicato al Pride, il Bike Pride che si terrà a Torino ma si starà tenendo anche in altre città. C'è 44 miliardi l'impatto economico del cicloturismo in Europa, cioè in Europa il cicloturismo ha fatturato 44 miliardi, 2 miliardi in Francia, ben 9 in Germania. Quindi è comunque anche un'idea di possibile risorsa economica. Perché gli italiani hanno tanti problemi in tante città ad andare in bicicletta? Lo reputano disdicevole? Lo reputano un salto indietro? Hanno in mente ladri di biciclette, gli anni difficili, l'uscita dalla congiuntura, dalla dittatura, l'entrata nel boom, quindi la conquista della 600, la conquista dell'automobile? Si vergognano di andare in bicicletta? Non osano? O le città non sono attrezzate? 800240024. Bike Pride 2015. Siamo qua a Bologna. Sui pedali, sui pedali. Pedaliamo Giuseppe Piras, buongiorno. Buongiorno. Presidente di Bike Pride e FIAB Torino. FIAB è la Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Vi siete scelti un inno pre-boom proprio, c'è un senso di vintage, è voluta questa cosa qui. Perché associate alla bicicletta qualcosa di nostalgico? Ma in realtà quello è l'inno del Bike Pride di Bologna. C'è questa idea, quest'anno si voleva celebrare un mare di biciclette, quindi questo sembrava anche un inno che fosse, come dire, intonato con questa... Ma comunque allegro, esprime allegria, non esprime rabbia, non esprime livore, che è il tipico atteggiamento di chi va per strada. Ecco, un Bike Pride in cosa consiste? Nel rompere un po' le scatole alle persone che vanno per strada con l'automobile, fargli capire che le città possono essere usate anche in maniera diversa. Ha un senso di flash mob, di in qualche maniera manifestazione visibile e tangibile, non è semplicemente una passeggiata. No, è una, appunto, la dimostrazione dell'orgoglio di chi si muove in bicicletta. È stato pensato per contarsi, per vedere quanti sono i ciclisti che hanno voglia di riappropriarsi della strada per un giorno, almeno un giorno all'anno, e i numeri hanno dato comunque ragione di quest'idea che le persone abbiano voglia di muoversi in bicicletta. Hanno solo bisogno di un po' più di infrastrutture, un po' più di servizi e un po' più di sicurezza. Guardi, ho assistito giorni fa a un eroico, penso sia un Bike Pride o qualcosa del genere, un'eroica salita del Muro Torto, che è una salita terribile lungo le mura da Piazzale Flaminio fino, diciamo, all'inizio di Via Veneto, di un nucleo di ciclisti che andano su tutti in bicicletta pedalando in salita, e non le dico cosa stava accadendo dal punto di vista degli automobilisti. Quindi c'è anche un senso di sacrificio, di conquista faticosa delle città che non sempre sono attrezzate. Giuseppe da Catania, buongiorno. Sì, buongiorno. Vorrei raccontare la nostra esperienza di ciclisti e pedoni che provano quantomeno a rendere più vivibile una città che penso che al pari di Roma, come caos automobilistico... Beh, c'avete un bel centro storico, un'isola pedonale che funziona però a Catania. No, non c'è un'isola pedonale perché parcheggiano comunque, anche, è stato dimostrato, anche le auto dei consiglieri comunali continuano sempre a entrare. Ma si rende conto cos'è Roma? Cioè... di fronte al teatro di Catania è un'oasi. Una bella lotta. Comunque hanno provato a Catania a rendere il lungomare liberato, cioè questo bellissimo lungomare totalmente invaso dalle macchine, ma non si riesce mai a renderlo costante perché le amministrazioni, vuoi o non vuoi, sono sempre subordinate ai voleri di pochi. Da noi, quindi, Catania, il ciclista non ha ancora, diciamo, non ha ancora un peso politico, questo vuol dire lei? Assolutamente no, ha più che altro hanno peso politico i commercianti o, diciamo così, gli ambulanti. È famosissimo quella famosa, un po' una vergogna nazionale, in cui i paninari, il comune ha consentito alla manifestazione sia dei ciclisti che dei paninari, perché è una via piena di camioncini con i panini, contemporaneamente, quindi questi paninari massacrarono di botte un ciclista, gli presero la bicicletta. Sarebbe il camion bar, sì, un fenomeno, sì, di cui Roma sta cercando di liberarsi, se possibile. Catania è piena di paninari, è uno street food anche, secondo me, in ogni caso da tutelare, ma è un altro discorso. Il problema è che l'amministrazione in ogni caso ha paura a rendere questa cosa un evento costante, continua sempre a procrastinare, cambiare le date. Poi la cosa con cui ci scontriamo sono più che altri controlli, i vigili urbani che hanno tutt'altro interesse che tutelare. Come vi fermano e guardano se avete tutto a posto anche sulla bicicletta. Paolo, sentiamo Paolo. Paolo invece da dove chiama? Sono io? Sì, lei Paolo, abbassi la radio però. Siamo da Pesaro, città abbastanza favorevole al ciclismo. Pesaro, sì. Esiste a Pesaro, voglio segnalare, una bicipolitana, che è un sistema, è tutta una rete di piste ciclabili con sottoterra, tanto numero, con indicazioni e carte. Ma cosa percorrete? Le fognature? Perché sottoterra in bicicletta, come funziona? Ma non è questo per cui telefono. Lei ha parlato di attriti, sì, fra ciclisti e automobilisti. È vero, sì. Premesso che io sono un ciclista assiduo, vorrei segnalare il fatto che esistono frizioni altrettanto gravi tra ciclisti e pedoni. Parlo dei ciclisti che vanno sui marciapiedi. Anche tra pedoni e cani, tra cani e gatti, gatti e topi. È stata denunciata più volte con lettere ai giornali e proteste di vario genere, ma che assolutamente continua, anzi direi che peggiore. Ma le posso dire, anch'io sono ciclista a domenica, del tutto arraffazzonato, però in certe città, onestamente, in certi momenti saltare sul marciapiede significa salvarsi la vita. Ci sono marciapiedi larghissimi, sembrano fatti apposta. Un amico appena tornato dalla civilissima città di Berlino Berlino, mi ha detto: ho viaggiato 3 giorni da solo in bicicletta per tutta la città, un rispetto assoluto, ai semafori fanno passare prima i ciclisti, vietatissimo assolutamente entrare in bicicletta nelle aree pedonali, devi spingere la mano come se fosse una motocicletta, le regole scrivibili ci sono, è che sembra banale scrivere delle regole per i ciclisti quando quelle scritte per gli automobilisti non esistono, le macchine continuano ad essere in doppia fila, i sensi vietati continuano ad essere rispettati, i parcheggi tanto meno, i semafori tanto meno e via dicendo, forse è questo. Claudio, buongiorno. Da Torino, buongiorno. Claudio da Torino, lei si prepara allora alla giornata, al Bike Pride di Torino, saranno cavoli amari per voi tassisti. Ma no, quello sicuramente no. Volevo solo semplicemente dire purtroppo come i ciclisti, la gran maggioranza dei ciclisti non conosca il codice della strada, oppure lo ignori, nel senso che qui a Torino è regolare avere i ciclisti in contromano. Quando ci sono delle vie con precedenza, tu guardi dalla parte della precedenza, non guardi in contromano. Ti arriva la bicicletta, certo. Te li trovi e a volte e ti insultano anche. Purtroppo quando attraversi le isole pedonali guardi i pedoni, i ciclisti non dovrebbero andare in bici, eppure loro sfrecciano in bici pur non sapendo che se li metti sotto non li paghi, anzi sono loro che pagano te. Purtroppo troppi ciclisti pensano di essere, perché sono ciclisti, pensano di poter andare tranquillamente, ecco, dove vogliono. Lei ha riassunto il punto di vista medio moderato di un automobilista, dice sì, i ciclisti mi stanno anche bene, ma vivono in una sorta di vacatio legis, per cui a loro per il fatto che vanno in bicicletta, quindi non inquinano, non sporcano, non fanno rumore e via dicendo, sembra permesso tutto. Sentiremo il nostro ospite tra un istante, dopo il traffico, cosa ha da replicare a questa istanza dell'automobilista, però amico dei ciclisti. Melog, cronache meridiane. Sono Ignazio Marino, siamo nel maggio del 2018, stiamo pedalando insieme, invece di rischiare l'osso del collo tra macchine, mezzi che ci sfrecciano accanto, abbiamo una corsia preferenziale. 300.000 persone si muovono come a Copenaghen sulla bici. È diminuito il traffico, è diminuito le polveri sottili, lo smog. Questo è un testo inedito, è un testo di Cicerone, il Somnium Marinis, è il sindaco Marino che immagina se stesso nel 2018 in una Roma soltanto popolata da biciclette. Tutti ce lo auguriamo, speriamo che sia vero, speriamo che riescano a spianare i 7 colli in modo che sia una grande pista ciclabile. Volevo riprendere l'argomento con Giuseppe Piras, che ricordo è presidente di Bike Pride e FIAB di Torino, che è la federazione italiana amici della bicicletta. È possibile riprodurre, non nel solito stereotipo, quello che è il principio fondamentale, non dico di attrito, ma perlomeno di contrapposizione dialettica tra l'automobilista urbano e il ciclista urbano? Ma allora, i ciclisti sono italiani, come lo sono gli, certo, automobilisti, e quindi hanno, credo, la stessa attenzione alle regole che abbiamo tutti quanti nel nostro paese. Quindi non credo che siano più indisciplinati di qualsiasi altro utente della strada. Chiaramente questo fa sì che, non essendoci una serie di regole condivise, sia molto complicato. Diciamo che il massimo dei danni che un ciclista fa indisciplinato sono contro se stesso, più che contro gli altri. Esatto, si fa male lui. Questa è la grande differenza. Il peso di una bicicletta è 70 kg con la persona, e quello di una macchina è 10 volte tanto. Le velocità sono molto diverse, quindi il rischio è molto minore. Ecco, cosa ci manca per essere come Berlino? Io l'ho raccontato, la cronaca di un amico tornato proprio da Berlino, questo lungo weekend è stato a Berlino, ha detto: guarda, un altro mondo, non avevo bisogno di nulla, viaggiavo in bicicletta, sembrava la città fatta apposta per le biciclette. Beh, città ricostruita, ma gran parte delle città italiane hanno avuto piani urbanistici dal 45 in poi. Cosa manca alle città italiane? Manca una strategia, manca una volontà, un piano nazionale per la ciclabilità. In realtà è sempre stata affrontata un po' a spizzichi e bocconi, un codice della strada molto vecchio e autocentrico al parossismo. Manca anche, appunto, nella progettazione vera e propria delle città l'attenzione per altri mezzi che non siano l'auto. La ciclabilità viene apposta dopo, quando ormai il piano è finito, dove sta insomma un po' nei ritagli della carta, dove non dà tanto fastidio. Questo è un problema. Parigi sta rimmaginando completamente la sua mobilità, ha messo la bicicletta al centro e quindi sta immaginando di creare delle grandi zone 30, zone a una velocità moderata, perché non è sempre necessario avere delle infrastrutture ciclabili, delle zone in cui la velocità è più bassa. Ora facciamo una domanda più insidiosa, Piras. Come mai i ciclisti non riescono ad avere un peso politico? I ciclisti votano, sono tanti. Come mai diciamo, la bicicletta è usata o strumentalmente per campagne demagogiche, a volte anche abbastanza ridicole, si fanno vedere i candidati in bicicletta sotto elezione e via dicendo, ma come andare alla Sagra della Salsiccia? Come mai non riesce ad avere, diciamo, l'Italia saggia che usa la bicicletta, ma non perché è un vezzo radical chic come molti vorrebbero credere, perché fa anche bene, uno fa esercizio, risparmia la palestra, arriva velocemente, più comoda, si arrabbia meno, non lo so, ci sono tanti vantaggi onestamente. Perché non riesce ad avere un peso politico il ciclista? Io credo che sia principalmente una questione economica, è ancora un mercato che non ha potere, non ha pressione rispetto a quello che può essere ancora insomma l'ultimo colpo di coda del mercato dell'auto, che ancora riesce a fare tantissima lobby, tantissimo peso. Immaginiamo sui giornali anche le pubblicità, la maggior parte sono ancora di case automobilistiche. Cioè, le dico una cosa che lei mi confermerà: pesa. Se uno non ha grandi pretese di avere sempre il modello più perfetto ultimo, oggi ho guardato, si comprano biciclette usate, nuove, di gente che la compra poi non ci riesce ad andare, dai 70 ai 150 euro, biciclette appena uscite dal negozio. Non saranno bici di grandissimo pregio, ma sono bici che funzionano, nuove, con i cambi, con i freni che funzionano, quindi è relativamente economico andare in bicicletta. Sì, assolutamente economico, si trova molto nel mercato dell'usato, si possono recuperare le biciclette dalle cantine dei nonni. Una bicicletta ha una vita media molto più lunga di quella di un'auto, per esempio, perché è stata pensata per durare, per essere aggiustata, per essere mantenuta, e quindi è sicuramente un oggetto che si può tramandare. È un oggetto che ha bisogno di pochissima manutenzione, perché una volta che uno la tiene un po' a posto, gonfia le gomme e ogni tanto la ingrassa, può durare per moltissimi quindi anni. Quindi questo è il limite, non ha una sua, diciamo, una sua vita finita, nel senso, il mercato vuole cose, si cambiano continuamente. Uno, a meno che non diventa un appassionato di bicicletta, vuol sempre i modelli perfezionati, con una bici dai 70-100 euro può tranquillamente godersi la città. Sentiamo Lorenzo. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io contestavo un po' la retorica della bicicletta, una retorica sostanzialmente, se mi si può permettere, moralista. L'automobilista è cattivo, il ciclista è quello buono. In questa differenza diventa molto difficile gestire l'invito agli automobilisti a usare la bicicletta. Le azioni tipo critical mass, dove bloccano la città, quelle che stavo dicendo, no? Io sì, esattamente. Esatto, queste, secondo il mio avviso, vanno contro la causa della bicicletta. No, fanno inviperire ancora di più. Io vedo delle cose, la gente scenderebbe col clip e massacrerebbe i ciclisti. Infatti, esatto. Sono abbastanza critico verso la critical mass, che mi rendo conto che è l'unica maniera per dare una dimostrazione, ma in una città come Roma, vedere le persone che vanno a passo d'uomo in bicicletta, mi rendo conto che scatena la già poca tenuta psichica di chi sta al volante nel traffico. Ma infatti bisognerebbe, oltre a costruire le ciclabili, bisognerebbe anche costruire i ciclisti, cosa che tendenzialmente in Italia, non so, all'estero, non viene fatta. E poi forse prima ci vogliono le piste e poi si costruiscono i ciclisti, forse, non lo so. Ma io non lo so, io sono ciclista da una vita e non ho mai avuto un problema ad usare la bicicletta perché non c'era una ciclabile, quindi non credo che questo sia il problema. Sicuramente se io voglio costruire un ciclista non lo vado a prendere da uno che già in bicicletta ci va, devo andare a parlare da quello che la bicicletta non lo usa, che è il signore che va in macchina. Se io continuo a usare degli improperi nei suoi confronti, in rete circola un termine, fondo schiena di pietra. A culo di pietra sarebbe, sì. Esatto, ecco, quindi chiunque. Vabbè, anche macchina, il ciclista si fa dei bei calli sul fondo schiena, se ci sta. Diciamo la verità, se poi vogliamo confrontare. È molto difficile il dialogo. Io suggerirei a un'ipotesi dell'amministrazione che si prenda in carico un modo per comunicare la bicicletta come un vantaggio, ma come un vantaggio individuale. Sì, non antagonista, perché poi l'appassionato di automobile andrà sempre in automobile anche per fare soltanto 100 metri. Ma quella è una nicchia, forse. Però diciamo, potrebbe consumare, diciamo, prendere pubblico fra quelli che vanno col motorino, ad esempio, Roma è piena di motorini. Certo, si fa per prima, ma il motorino, che è rischiosissimo allo stesso modo, ne vedo spiaccicati ogni mattina, almeno 4-5, forse magari potrebbero essere convertiti alla bicicletta, ma non perché è buono e bello, salvano l'anima, perché fa meglio anche a loro. Ma Mirko, buongiorno. Buongiorno. Mirko. Un secondo che tolgo la voce. Sì, ecco. Bene? Sì, veloce perché stiamo chiudendo. Benissimo, sì, il problema secondo me, innanzitutto io vado in bicicletta a Roma, si va molto bene a Roma in bicicletta perché è una bellissima città e quindi si vedono dei monumenti e delle cose. Non prendo il motorino, non compro il motorino perché non ho voglia di pagare bolli, targhe, assicurazioni, quindi una bicicletta assolutamente più economica. Non credo tanto nelle leggi, applicare nuove leggi, creare nuove leggi, perché secondo me vige anche il senso di sopravvivenza. In giro per Roma vedo gente con l'iPod nelle orecchie e mi chiede: ma chissà che musica. Sbagliatissimo, è sbagliatissimo. Andare in bicicletta e mettersi anche le cuffiette vuol dire rischiare la vita ancora di più. Alla prossima, riprenderemo l'argomento.